A questo punto entro io raccontandovi un po' il programma di questi giorni che iniziano con giovedì 21 e finiscono con domenica 24 ottobre e che in verità sono già iniziati con gli interventi delle brigate poetiche nelle nostre classi. Ecco, il nostro festival sicuramente si distingue per un approccio libero, democratico e giocoso alla poesia. Questo non per non essere persone serie, no? Ma perché crediamo e soprattutto su questo insiste sempre moltissimo il nostro direttore artistico. Bernard Friot, che è francese, che è una personalità riconosciutissima nell'ambito della letteratura per l'infanzia, perché fa e ha fatto tantissimo, fino a vincere anche il premio Andersen 2 anni fa, proprio poco dopo la nostra prima edizione. Ecco, Bernard Friot, ha scritto, direi all'inizio di quest'anno, un decalogo dei diritti universali alla poesia, che si trova sul sito del festival, in cui appunto accenna alla necessità di rendere democratica, aperta, democratico e aperto questo genere che spesso rimane come un qualcosa di inaccessibile al grande pubblico o anche per i bambini rimane forse nell'ambito della filastrocca, della ninna nanna. Noi partendo da lì vogliamo proprio aprire a tutti i bambini tutta la poesia non solo appunto scritta da autori italiani, non solo quella scritta per bambini. Iniziamo con quindi due inviti di stranieri, tre con il nostro direttore artistico, ma lasciandolo per un momento da parte, abbiamo quindi due stranieri, una è Mar Benegas, una poetessa spagnola che ha un'esperienza grandissima nella promozione della lettura, nelle esperienze poetiche con i bambini e i ragazzi e nella scrittura naturalmente, ha tantissimi libri pubblicati. Terrà tra le tante cose una serata dedicata proprio alla poesia iberoamericana per ragazzi, che è stata grande protagonista al Bologna Ragazzi Award perché ha avuto il libro vincitore, il cui curatore sarà in collegamento con noi e un libro menzionato, quindi 2 su 5, diciamo, dei libri segnalati. Joseph Coelho è l'altro autore straniero che sarà con noi. Abbiamo dato tanti, tanti incarichi perché abbiamo visto che è molto bravo e allora a parlare in pubblico, allora già che era qui. Joseph terrà tra l'altro una formazione per insegnanti in lingua inglese, proprio giovedì sarà il primissimo evento del festival. Tutti quanti insieme anche agli italiani che non voglio dimenticare perché sono comunque dei personaggi, veramente abbiamo con noi, abbiamo avuto l'adesione entusiasta di tanti poeti e poetesse che sono il cuore della editoria italiana per quanto riguarda la poesia per ragazzi. Quindi abbiamo Chiara Carminati, Nicola Cinquetti, Giusy Quarenghi, Silvia Vecchini. Tutti insieme saranno presenti a quello che un po' consideriamo il centro della riflessione, ecco, perché c'è tanto lavoro sulla poesia appunto aperta a tutti, ai bambini, ci sono tanti eventi per i bambini, soprattutto nel fine settimana, le serate, ci sono laboratori, ci sono occasioni di ogni tipo e tanti interventi a scuola e poi c'è un momento in cui ci fermiamo a riflettere. Questo sarà sabato pomeriggio, è una tavola rotonda che si chiamerà La poesia a scuola, in cui tutti gli autori rifletteranno appunto su come sia nella loro esperienza, cosa funzioni meglio, ecco, nelle scuole per portare la poesia a tutti i bambini e ragazzi. Per gli adulti ci sono tante altre proposte, mi viene da dire forse anche l'intervento di Giusy Quarenghi con il suo libro Ascolta, i salmi per la voce di bambino, ci sono veramente iniziative per tutte le età, in particolare per chi è genitore, per chi si dedica all'educazione o all'insegnamento. Mi piacerebbe appunto a questo punto parlare della serata inaugurale, è stata una scelta di grazia di cui io sono stata molto contenta di accogliere. Sarà con noi Margherita Rimi, è una psicoterapeuta e poetessa. Avrà l'occasione di presentare il suo saggio che è in uscita, che si chiama Il popolo dei bambini ed è un saggio che racconta il ruolo o il non ruolo dei bambini nella nostra società. Quindi anche lì iniziamo con una riflessione dedicata agli adulti per poi lanciarci veramente in 3 giorni dedicati sia agli adulti ma tantissimo a bambini e ragazzi del nostro territorio, ma le iscrizioni parlano chiaro anche di altrove. Silvia Vecchini ha tantissimi appuntamenti a questo festival, lo vedrete dal programma. Una sperimentazione di quest'anno è far parlare la poesia e altri linguaggi insieme. Per cui, in questo caso invece l'ultimo appuntamento del festival sarà un laboratorio aperto a tutti, bambini, adulti e bambini adulti insieme, famiglie, che si chiama Le parole dell'argilla. Con lei ci sarà quindi Petra Paoli, che è una ceramista di Grosseto e parte di Accademia Drosselmeier, parte attiva. Petra farà la parte della ceramica, Silvia la parte delle parole, sono sicura che si scambieranno anche i ruoli per come loro sono fatte, quindi sarà un'interazione vera di questi due linguaggi, quello della manualità, dell'arte plastica e della parola. Proprio mentre parlavamo di stranieri, non stavo quasi dimenticando un progetto a cui teniamo tantissimo, forse solo perché è partito e quindi non ci sto lavorando attivamente in questi giorni, avevo un po' messo nel cassetto. Ci sono 4 classi dell'Istituto Keynes di Castelmaggiore, 2 quarte e 2 quinte del liceo linguistico, che lavoreranno sulla traduzione editoriale di poesia, un libro tedesco e un libro inglese, partecipanti al Bologna Ragazzi Award Poesia. Quello inglese è quello che abbiamo già detto, il libro menzionato di Joseph Cohen. Siamo felicissimi, la persona che curerà insieme agli insegnanti il lavoro di traduzione è Alessandra Valtieri, traduttrice di poesia da queste due lingue all'italiano, e anche lei è davvero entusiasta di iniziare questo percorso con i ragazzi. Lo lanciamo proprio nei giorni del festival con un intervento in classe.